Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di nuovi progetti e di un nuovo pezzo musicale scritto da Bill, da anche nuovo progetto, non soltanto musicale, anche proprio esatto. La nuova identità musicale, no? Esatto, che un porti... nuovo progetto appena nato, proprio diciamo un mese fa, quindi più che fresco, non ci credo neanche io da quanto è nuovo questo progetto. Ed è un progetto che è nato a quattro mani e con un altro ragazzo che si chiama Giulio, che non è qua. Lo salutiamo, sì, assolutamente, sempre, e col quale abbiamo condiviso tantissimi anni insieme a suonare in una band, e poi le nostre strade musicalmente si sono un po' divise e dopo diversi anni siamo tornati finalmente, insomma, a fare un progetto comune, quindi sono molto contento, molto grato anche a lui che mi sta dando un supporto notevole nello sviluppo di questa nuova avventura. Fantastico, allora battezziamo proprio questo tuo ingresso non nel mondo musicale, perché già ci facevi parte, però diciamo un ingresso di un nuovo format, una nuova identità, no? Sì. Vuoi dire qualcosa sul nome? Vuoi dire qualcosa sul nuovo pezzo che ci suonerà in live? Il nuovo pezzo si chiama Mobile Ikea e parla di un nuovo inizio di due persone che stanno mettendo su casa insieme, ma è un nuovo inizio comunque di una vita anche musicale, è un nuovo inizio per tutto, un nuovo inizio per Billy, un nuovo inizio per me, come Alessandro, e quindi... È un nuovo inizio per Marco Roma. È un nuovo inizio per Marco Roma. Buongiorno! Le strade che percorro sembrano lunghe e strette, ma affrontando insieme a te mi sembra più facile. Semplificato sembra sempre il nostro cammino per la vita. Da Marco Roma, buongiorno. Dovete sapere che Marco Roma è il nostro adottato. Lo applaudo io da solo. Dai. Grande Marco Roma, grazie che ci mandi tutti questi vocali tutti i giorni. Sì. E io e Stefano lo adoriamo, perché diciamo che la sua compagnia, sempre innamorata, sempre positiva, ci fa passare le stagioni da questa finestra, no? Marco ci pensa sempre, noi lo trasmettiamo sempre, non hanno ancora capito se lui sa che noi lo facciamo andare in onda oppure no, però lui continua perennemente a mandarci queste piccole chicche sonore. Diventano jingle? Esatto, diventano dei bellissimi jingle che vanno on air. E quindi dicevi questo nuovo inizio, vuoi dire qualcosa del perché Biglie? Biglie? Biglie è nato un po' per caso, l'idea è... l'oggetto di questa sfera comunque colorata, anche un po' psichedelica, che sicuramente ha un suo fascino, quantomeno io l'ho trovato in questo, poi magari non tutti saranno d'accordo con me, ma oltre che un effetto un pochino nostalgico di un gioco che si faceva quando, insomma, si era bambini, certo, sulla spiaggia e tutto, quindi c'è un po' l'oggetto da una parte e la nostalgia di quell'infanzia vissuta. È un po' come se questo nome fosse la tua musa ispiratrice per dopo tutti i pezzi, no? Esatto. Questi anche occhi di gatto mi ricordano le Biglie. E non lo so, quando Nico, vuoi dire qualcosa? Tu stasera lo accompagni con una bellissima chitarra acustica, dico bene? Sì, è stata una delle mie prime chitarre, quindi tornando alla questione nostalgia, ha un suo perché, ecco, diciamo, non è una... chitarra particolare, non è una di quelle chitarre che si definiscono fancy o chissà cosa, però ce la facciamo andare bene, per un inizio di un progetto ci facciamo andare bene. Che è una bellissima fodera grippata dietro, molto... E dunque l'ascoltiamo adesso il pezzo, siete caldi? Siete pronti? No? Siamo caldi. Non so, com'è la... la... Caldi, siamo caldi. Caldi siete caldi. Caldi, stiamo tutti sudando tantissimo. Dai, ascoltiamolo, abbasso la musica di sottofondo. Ed ecco Mobile Ikea, Biglie. Colorami le mani di vernice fresca, in questi giorni così pieni di speranza, i nostri occhi come fanali sulla superstrada verso il mare. Mobili che hai finestre sul mondo, pieni di vita e di prospettive, i primi quadri appesi al muro, pareti bianche da colorare. Abbiamo visto i vent'anni finire così veloce, bruciati dal tempo. Ordiniamo i libri per autore, che dopo tutto mi fa stare bene. Sentirsi liberi davvero. Ho fatto pace con il mondo. Mi sento meglio adesso. Ehi, tu hai visto che bel posto qui? Un'altra volta si è fatta mattina, il materasso si è sgonfiato di nuovo, ma poco importa, incrocio il tuo sguardo e piano piano lo metto a fuoco. Ho voglia di stringerti e accendere una candela, abbracciarti nel buio, ballare un lento con Gilberto Gil in sottofondo. In sottofondo. Mobili che hai finestre sul mondo, pieni di vita e di prospettive, i primi quadri appesi al muro, pareti bianche da colorare. Abbiamo visto i vent'anni finire così veloci, bruciati dal tempo. Ordiniamo i libri per autore, che dopo tutto mi fa stare bene. Sentirsi liberi davvero. Ho fatto pace con il mondo. Mi sento meglio adesso. Ehi, tu hai visto che bel posto qui? Ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, ta-da. Grande. Wow, bellissima. Sì. Fantastico. Si è alzata anche la temperatura. Si è alzata la temperatura. Addirittura. Sì, cioè. Sempre più caliente. Esatto. Complimenti, complimenti per questo pezzo. Grazie, che hai scritto, musica, testo. Ho scritto allora musica, l'ha scritta Giulio, e il testo l'abbiamo scritto io e Giulio, quindi a quattro mani. Wow, bellissimo. Prima o poi lo porterò qua in studio, anche se lui vuole rimanere in anonimato, ma prima o poi lo porterò. È ancora più così suspense. Più suspense, esatto. Giulio. Chi sarà questo Giulio? Fantastico. Chi sarà questo Giulio? Ah, è inutile che guardi me, sei tu che devi andare avanti con la trasmissione. Sono tutti ospiti tuoi, io non so, non so cosa dobbiamo fare. No, puoi fare delle domande. Posso fare delle domande? Che ti sono venute in mente, secondo me ti è venuta qualche domanda su questo pezzo. Su chi sta svenendo per prima. Sì. Cioè, siete in un bagno 5, di sudore, esatto. Vi giuro. Cioè, no, infatti. Sono in un bagno di sudore da questa parte. No, bello, mi piace, gran pezzo. Ti ringrazio. Adesso sono curioso di sentire gli altri, perché mi sono arrivati un po' da poco, allora io non ho avuto il tempo di ascoltarli. Però adesso avete in progetto un altro, un'uscita di un disco, il titolo di... Allora abbiamo in progetto, entro la fine dell'anno dovrebbero uscire tre pezzi, tra cui questo che abbiamo appena ascoltato, e l'idea sarà quella appunto dall'inizio del prossimo anno di proprio iniziare a portare qualcosa anche live. Ci sarà un'atmosfera completamente diversa da quello che avete sentito adesso, più che altro sarà un richiamo sull'elettronica. Okay. Quindi saranno insomma sintetizzatori, dei beat abbastanza interessanti, però insomma mi piace sempre comunque che la chitarra, che è lo strumento che mi appartiene di più, anche se oggi per la prima volta da quando ho iniziato a suonare non l'ho portato con me, però sarà sempre comunque presente in tutte le prossime tracce, magari un pochino più passerà un pochino più sottovoce, ma ci sarà sempre presente. Perché tu di solito suoni la chitarra e canti. Esatto. Ok, perfetto. Sì. Avete già degli appuntamenti di live da fare quest'estate o prossimamente? Per il momento no, volevamo il primo live che avete fatto. Questo è il primo live che abbiamo fatto grazie a voi. Esatto. Grande. Bene, quindi, bellissimo. Ma dunque ci ascoltiamo anche Divi del cinema oppure è troppo presto? Dai, mettilo su. Vado? Vai. Allora, adesso dobbiamo trovare qual è. Ok, eccola qua. Un primo piano sul volto di un'attrice americana con un sorriso malizioso. Un solo uomo che passa lungo una strada deserta in cerca di salvezza. Luna nuova che sorge sopra i grattacieli di New York. È una notte di festa, è una notte di fuoco, è una notte in tempesta. Scegli tu il protagonista del film. Lungo un tappeto rosso purpureo, chilometri di flash. C'è chi canta fuori, fuori dal coro, e chi il coro se lo fa da sé. Ma come vedi tu i divi del cinema, così li vedi solo tu. Ma come vedi tu i divi del cinema, volti noti alla TV. Protagonista, antagonista, come il sistema sociale, il vecchio, il mare. A volte non concedono neanche un'intervista. Scusate, ma anche noi abbiamo da fare. Portare fuori i cani, andare in giro in moto per le strade di Beverly Hills. Oh, gente disperatamente persa, perché non trovano i blue jeans. Ma come vedi tu i divi del cinema, così li vedi solo tu. Oh, ma come vedi tu i divi del cinema, volti noti alla TV. Come vedi tu i divi del cinema, così li vedi solo tu. Oh, ma come vedi tu i divi del cinema, volti noti alla TV. Io nel frattempo vi avevo alzato i microfoni perché non si sa mai se qualcuno poi registra la canzone e ne fa dei bootleg, no? Scherzo. No, il vostro responso mi ha lasciato un po' così. Ok, eravamo tutti sterefatti. Certo, no, anche perché non sapete di cosa parlo, no? No, io assolutamente. Quando in radio si registrava con il registratore a cassette, si registravano le canzoni della radio, no? Per non comprarle. Ah, certo, certo, è vero. Ma anche adesso si può fare? Sì. Sì, si può fare. Però non lo fa più nessuno, perché sai com'è, si fa molto prima a scaricarli illegalmente. Ah, ok, al posto di avere un registratore con la cassetta. Esatto. Comunque niente, molto bello questo pezzo, si sentiva che era quasi un vecchio me. Quasi un vecchio te, quasi un'altra identità. Era antico questo? Questo sì, ormai direi che l'ho scritto questo 10 anni fa almeno. Ah, wow. Abbondanti, quindi sì. Era un altro progetto che avevo portato avanti scrivendo arrangiamenti, parole e quant'altro. L'ho portato live un po' per Bologna e provincia e quant'altro, accompagnato da... Sempre come Biglie? No, come Alessandro, quindi proprio come la mia vera identità in realtà. E qua si apre un discorso difficilissimo, perché parlare di vera identità, c'è qualcuno che dice che quando si parla delle proprie identità si fa un'assemblea condominiale praticamente rispetto alle tante, ho fatto una cheat di una mia amica scrittrice, Alice Diacono, la cito perché comunque non ho letto nel suo libro, però voglio dire, quindi parli di un altro te che adesso però esiste ancora, non produce più canzoni, no? Cioè, non sappiamo se lo ascolteremo o no. Ti sei messo a fare mobili IKEA? Esatto, mi sono dedicato più che altro a quello. Ok, sì. Ok. Si è messo a montare, cioè praticamente Bill lo suona e Alessandro li monta. Li monta, esatto. Abbiamo capito. Senti, com'è che nascono un po' i tuoi, o com'è nata questa, visto che un po' il tema di questa puntata è come nascono i nuovi progetti e quali sono quindi i progetti che voi tre, voi quattro state portando qua stasera, no? Com'è che è nato questo nuovo progetto? Hai una così una propulsione? Questo nuovo progetto mio è nato un pochino dalla volontà di mettersi un po' in gioco, di riscoprirsi, di provare a fare qualcosa che non avevo fatto in precedenza, e quello che abbiamo ascoltato adesso di Video Cinema ne è un esempio. E ascoltare sempre qualsiasi cosa mi capiti, musicalmente parlando, qualsiasi genere, per cui non averne uno ben definito e appoggiarsi su quello, ma esplorare il più possibile. E questo Giulio appunto mi sta dando una grande mano, perché è un... è una persona che fin da quando eravamo bambini mi ha fatto conoscere il mondo, dal rock all'indie rock, al pop, al punk, a tutti i generi possibili e immaginabili, anche quelli che non sono stati ancora scoperti. E quindi devo dire che nasce un pochino da questo, da mettersi in gioco e la volontà di fare qualcosa di nuovo, di mettersi alla prova. Ecco. Certo, io so che nella tua vita tu fai anche altro, oltre a scrivere canzoni. La domanda che ti voglio fare è quando... Ma come, non campa scrivendo canzoni? Come tutti? purtroppo no, però... altro poteva anche essere non legato al guadagnare soldi, perché cioè, potrebbe essere un possidente che non ha bisogno di fare nient'altro, lo fa per sport, così per divertimento. Fai altro? Lo faccio perché è la dimensione... Aspetta, non volevo chiederti che cosa fare, vado via allora. La domanda che ti volevo fare è se tu ti trovassi in una condizione in cui non fai altro, cioè comincia ad esserci una domanda verso le tue canzoni, verso i tuoi concerti, verso la tua produzione di musica talmente alta, tu riusciresti a fare solo musica o faresti anche altro? E quindi è la domanda opposta al riesci a fare solo l'altro e a non fare musica. È una domandona. Vorrei... Allora, ti dico la verità. Probabilmente tempo fa ti avrei risposto abbandonerei tutto quello che ho fatto finora per dedicarmi solamente alla musica. Ok. La verità è che l'ho sempre portata avanti come una grande passione che mi serve per tenermi proprio in vita al 100%, ma amo fare tantissime altre cose, quindi in realtà probabilmente vorrei avere due percorsi magari paralleli, chissà, sposando comunque questo ambito artistico musicale al 100%, quello sì, ma forse fare più cose, non legarmi solamente al creare una canzone o musicarlo, insomma. Certo, quindi una sorta di yin e yang, no? Che comunque è un perché io mi sono sempre chiesta, non so tu Stefano come, cioè dal tuo punto di vista, però mi sono sempre chiesta a livello così artistico, se una persona si dedicasse soltanto alla sua arte, alla sua creatività, se poi non fosse a un certo punto, non potesse inciampare in una sorta di sterilità di produzione, no? Cioè una sorta di così mancanza di limiti, e quindi non so. È una domandona questa. Certo, per me non... Cioè è evidente, visto che sono 10 anni che faccio coxo spaziale oltre che a dipingere, per cui per me sì, è obbligatorio sposare, visto il soundtrack, è obbligatorio sposare qualcos'altro anche, oltre a quello che faccio normalmente. Ma però non tutti sono così, cioè ci sono dei pittori che sono infognati, stanno 20 ore in studio al giorno e non farebbero nient'altro e non fanno nient'altro. Certo. E questo discorso, questo è il volo al 7599 per non so dove. Esatto. E questo è un American Airline, fra l'altro, bello grosso. Non so, presumo che vada in America. Comunque questo discorso delle identità multiple o del così dedicarsi a cose diverse e che ognuna nutra diciamo quella di fianco, mi serve sul piatto d'argento per introdurre la nostra art director Elena Bove. Buonasera. Dici chi sei, qual è la tua formazione, e io so che tu fai mille, milioni, miliardi di cose. Miliardo e mezzo di cose. E io nasco un po' come architetto del paesaggio e poi mi sono, diciamo, specializzata. Ho avuto l'opportunità di lavorare nella moda e lì ho iniziato a progettare le vetrine. E per me in tutti i miei progetti però c'è sempre stato questo un po' filo conduttore, che è il filo conduttore del rispetto per l'ambiente, quantomeno di non essere impattanti sull'ambiente. E adesso mi occupo di eventi con una mia grande amica che è proprietaria di un'azienda vinicola. Che se ci sta ascoltando la possiamo salutare. Sì, ciao Federica. E l'azienda si chiama Caprigliano, fa dei vini buonissimi che sono stati anche riconosciuti dalla FIVI, che è la Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, e due volte al mese facciamo queste cene in vigna che hanno riscosso abbastanza successo e le organizziamo insieme sotto vari aspetti ed è anche qualcosa di molto divertente, ecco, essere a contatto con la natura, utilizzare anche i prodotti che ci lascia, cioè che ci mette a disposizione la natura. Anche perché so che nel vostro menù fate anche delle preparazioni con delle erbe spontanee, giusto? Sì, erbe spontanee, poi le verdure sono comunque biologiche e vengono dall'orto che fa Federica insieme a Giovanni, il suo compagno, e comunque cerchiamo di utilizzare dei prodotti che siano a chilometro zero, diamo possibilità di menù vegetariani, menù vegani, quindi siamo in qualche modo attenti anche alle necessità di tutti quanti. Certo, e se io ti dovessi fare la domanda qual è per te un nuovo progetto, è questo di Caprigliano o ne hai in serbo qualcun altro? Io di idee ne ho un milione di miliardi. Sicuramente Caprigliano ricopre un posto speciale nel mio cuore, sia per l'affetto che comunque ci lega con Federica e sia insomma perché questo è un po' un progetto che abbiamo portato avanti noi, quello degli eventi in vigna. Chissà se ci potranno portare da qualche altra parte. Per il futuro invece vorrei concentrarmi più nell'ambito food, nell'ambito diciamo vino e quant'altro, e mi piacerebbe iniziare ad esplorare meglio l'ambito dei prodotti da forno, i prodotti dolciari, i prodotti insomma quelli col glutine. Grande, trovi tutto bene. Se fosse stato inverno avresti portato grandi produzioni, grandi bignè avrei, esatto, portato. Grandi, fantastico. Bene, allora aspettiamo con ansia la puntata invernale. Esatto, la puntata invernale. Quando volete. E anche le vostre pubblicità su Radio Città Fuggico. Dico così perché sono le 19:30 e vi devo interrompere un secondo. Pochissimo. A grande richiesta nel cortile alberato della scuola Acquacquarelli dal comune di San Lazzaro. E dunque bentornati a Coxo Spaziale. Di che cosa stavamo parlando, Mia? Stavamo parlando dei nuovi progetti, dei tanti progetti, in questo caso di Elena Bove. E la cosa che così volevo domandarti, non andando lontano, se mio zio o tuo zio ti chiedesse ma quante personalità hai, quante cose nuove fai, è una domanda che ti mette in crisi? Ma in realtà se le conto sì, tutte queste personalità. Poi, come dice la tua amica, qua c'è il condominio che si mette d'accordo, diciamo che è quella che esce prima di personalità, quindi ne ho tante, multiple, ho tantissime sfaccettature e sono una creativa, cioè non amo essere definita, non amo rientrare in degli schemi, mi piace, ecco, spaziare nella mia creatività. Come dicevano i ragazzi prima, io ho bisogno di contaminazioni con tutto quello che faccio e mi nutro di tutto quello che faccio, quindi nuovi progetti sì, ce ne saranno tanti. Quindi visual, fashion, sì, rientra all'interno anche di un'estetica, per esempio di un piatto, di un cibo, di una serata culinaria, sì. No? Assolutamente sì, ma è uno dei miei, diciamo, progetti principali, progetti futuri, è unire il visual merchandising che io ho potuto imparare e fare per tanti anni nelle aziende di moda. Mi piacerebbe molto poterlo applicare al mondo del food, del vino, del beverage, comunque di trovare dei nuovi spunti, perché vedo che comunque c'è richiesta e c'è interesse da parte, certo, mia. Ma anche perché pensare un po', Chiara Cartesio, non mi ricordo più quel detto di trovare la soluzione fuori dal problema, no? Quindi esatto, riuscire a portare veramente delle contaminazioni di architettura del paesaggio all'interno del tema della sostenibilità come visual merchandiser e all'interno dell'estetica, per esempio, di un piatto, di un cibo, ma anche dell'esperienza stessa del mangiare, no? Esatto, la multisensorialità è stato sempre uno dei miei principali, come dire, stimoli progettuali. Oltre allo stimolo visivo ci deve essere lo stimolo uditivo, lo stimolo gustativo per il cibo, e la multisensorialità è uno dei miei, appunto, certo, nodi progettuali. Certo, dei tuoi superpoteri. E senti, ma com'è che ti nasce l'idea di un nuovo progetto? Ascoltando una canzone di Biglia, ovviamente. Ovviamente, ascoltando una delle mie 14-15 personalità che abitano la mia mente e cercando di dare sfogo comunque a quelle che sono le mie attitudini e cercando di assecondare anche il momento presente. Quindi noi siamo fatti di quello che viviamo, siamo fatti di quello che mangiamo, siamo fatti di quello che vediamo. Siamo iperstimolati, è vero, però dobbiamo anche cercare di trovare una valvola di sfogo a tutte queste nostre creatività e a questi nostri stimoli che, se rimangono, si stratificano e poi si crea un tappo. Certo. Secondo me non riescono più ad uscire, quindi bisogna assecondarli, bisogna esplorare, bisogna capire. Certo, anche secondo me questa è un po' l'essenza di come nasce un nuovo progetto, appunto, cioè riuscendo veramente a viversi il momento, non so, anche del viaggio in treno piuttosto che della vacanza. So che qualcuno in questa stanza non va in vacanza da tanti anni, io penso che mentalmente neanche io vado in vacanza, perché quando sono in un posto mi viene in mente, non so, un nuovo progetto da fare, da realizzare. E introdurrei in questo nuovo progetto il nuovo progetto della fashion designer che abbiamo, ecco, in radio stasera, Maria Giulia Burattelli. Yes, dico bene, perfetto, esatto. Sempre ansia con i cognomi lunghi. Ma doppia T, doppia L è caotico, lo so. Hai un nuovo progetto in essere, no? Eh sì, un nuovo progetto di vita, direi, perché dovrò trasferirmi in Francia, quindi insomma incrociamo le dita e speriamo vada tutto bene, ma resto positiva, dai. Trasferirti in Francia per lavorare per una nuova maison di lingerie. Esatto. E allora dimmi che cosa ti ha portato a... Io sono... Ecco, adesso alzamelo, grazie. Te lo alzo un pochino? No, del tutto, grazie. Infatti non capivo perché non vi sentivo e avevo tutto al massimo, ma... Così com'è? Sì, perché mancava quella linguetta. Ovviamente è colpa mia, stasera, no, Stefano in radio mi stai sgridando per tutto, ho ansia. Cioè praticamente... No, non è assolutamente... Comunque quattro persone qualche... Cioè, lo so, no? Cioè, potrebbero dipendere. Infatti. Ah, guarda, siamo prendendo oggi. Assolutamente. No, non è per niente colpa tua. Anzi, fra l'altro mi avevano detto che questa console ha la precedenza su quella, mentre invece evidentemente non è così, perché io avevo tutto al massimo e continuavo a non sentire abbastanza. Ok, comunque tu dimmi, io faccio. Fai completamente. Fai la trasmissione mia. Ok, allora Maria Giulia, ci stavi dicendo che stai andando a Parigi per disegnare per una maison di lingerie, esatto, no? Esatto. A me è sempre piaciuta la lingerie perché è qualcosa che noi non vediamo, uh-huh, ma che cioè, personalmente mi piace lavorare nel mondo dell'intimo, perché è una cosa, diciamo, in pochi casi condivisa, ma estremamente personale, di solito un indumento che noi ci portiamo dentro e che ci restituisce una sensazione, una comodità, anche una così un sentirsi in un, esatto, certo modo. È proprio lo slogan della lingerie questo. Esatto, è un regalo. È un amuleto tuo personale che indossi per te stessa prima ancora che per qualcun altro, no? E quindi mi sono sempre chiesta come nasce l'idea di un nuovo prodotto di lingerie, se nasce per uno sguardo, adesso poi si parla tantissimo di maschile e femminile, di gender fluid, di non so se esistono dei capi di intimo gender fluid, per esempio, nonostante. Sì, qualcosa stanno facendo. Ho visto un brand l'altro giorno americano che, nel senso, i capi di intimo sono sempre quelli, vengono indossati semplicemente da entrambi i sessi, però vengono fuori, insomma, concept interessanti. Tu che cosa hai in mente quando devi disegnare un nuovo prodotto? Pensi a chi lo vedrà, chi lo indosserà, chi... Sì, innanzitutto bisogna guardare il budget, okay, da dove si parte. Siamo realisti. Esatto, lavoriamo d'altronde. E quindi poi da quello, insomma, poi capisci per chi è, chi lo dovrà indossare e poi si sviluppa l'intera storia. Noi iniziamo dal mood board, che è una raccolta di foto che aiutino gli altri a capire che cosa vogliamo raccontare, e poi da lì partiamo a disegnare. Di solito veniamo anche aiutati dal reparto stile commerciale, ecco, dal reparto commerciale con le shape, cosa gli serve, cosa bisogna vendere, eccetera, e poi dati questi elementi partiamo a disegnare. Certo, certo. C'è un tuo capo iconico di lingerie? Mio? Non so se me la sento. No, mio direi di no, però... No, anche che non hai disegnato tu, però che dici c'è questo... Immancabile. Cioè, la perla, per esempio, di lingerie. Adesso la perla, sì, magari compra una pubblicità su Radio Città Fujiko, visto che ne stiamo parlando. Speriamo. Assolutamente. Sì, li invitiamo, però voglio dire, c'è per esempio la perla stessa è l'esempio di questa emancipazione femminile, di come la lingerie diventa veramente, certo, anche un simbolo di emancipazione femminile, certo, no? Beh, esiste... Ada Masotti, la fondatrice della perla, è stata una bolognese, tra l'altro, un grande personaggio femminista che ha voluto rendere l'intimo, che prima era più meno libero, più costringente, l'ha voluto rendere per le donne, fatta alle donne per le donne, quindi... Noi comunque abbiamo apprezzato. Io sono certa. Grande Ada. No, ricordo le pubblicità degli anni 80 della perla. Sono porno, alcune completamente. Pazzesche. Pazzesche. Beh, facevano le pubblicità solo delle mutande. Sì. Ti volevo chiedere, ma che tipo di studi deve fare qualcuno che vuole intraprendere la tua carriera? Allora, io ho fatto un percorso lineare, ho fatto liceo artistico, mm-hmm, dopo quello ho fatto fashion design alla NABA di Milano. Ok. E ho poi iniziato a lavorare. Il mondo dello stilista è complicatissimo, ci vuole, certo, un gran pelo, esatto, sul fegato, ma... abbiamo iniziato con stage non pagati, eccetera, certo, e poi sono atterrata qua a Bologna. Adesso vediamo cosa... Perché invece da dove venivi? Io vengo da Pavia, vicino, okay, a Milano, mm-hmm, il far west italiano. Il far west. Beh sì, lì ne avete da sgomitare sicuramente. Sì, sì, sì, esatto. Ho capito. No, non che qua sia molto meglio, però insomma. Ho capito, grande. E dunque ti trasferirai a Parigi o...? Sì, speriamo, allora non ho ancora una casa, sono, okay, disperata, però... Vabbè, dai. Vediamo cosa... No, puoi dormire sotto la senna. Beh sì, no, c'è un sacco di spazio, un sacco di... Bah, esatto. Quindi, bah, tanto... Cartone, via. Via, veloce. Esatto. Economico, soprattutto, esatto, perché Parigi, sì, no, è spaventosa. Cioè, Parigi presumo è spaventosa. Che ti offriranno uno stipendio della Madonna, perché riuscire a campare a Parigi non... Oddio, è... Non so ancora come... Diciamo che non è proprio un loro problema. Ecco. Esattamente, è mio più che altro. Io sono andata un po' così all'acqua di rose, però, esatto, vabbè. Insomma, sì. Spero che non dovrai andare a vivere nelle banlieue a un'ora e mezza dal centro. Ah, va, no, dai, speriamo di no. Speriamo di no. Ma se qualcuno che sta ascoltando ha un contatto di una dritta, esatto, nella casa a Parigi, diciamo, mandate subito un messaggio, io vi riempirò di mutande. 333 180 94 94, se avete bisogno di mutande e avete i contatti a Parigi, scrivete immediatamente. Esatto. Una casa per 5 mutande, esatto, una, esatto, casa per me e Giulia, in cambio sono brava, sporco, simpatica. Ti resti bene. Le mutande della Perla sono 3. Infatti. Diciamo che forse un affitto con 3 mutande ce lo paghi. O meno, no? Esatto. Cioè. Ma, allora, ma le mutande, sì, vanno stirate, no? No, no, nemmeno. No. Okay. Però mutande la Perla, il lavaggio è complesso. Ah, sì? Solo a mano. Cavoli, solo a mano. Ma sì, lusso, siamo lusso. Sti cazzi. Cioè, già solo quello a mano, se no lavaggi delicati. Se no si, senza si portano da, dalla lavanderia. Oddio, no? Quelle mutande, la lavanderia. Esatto. Beh, la vergogna. Se te la solo senti, poi. Okay. Che vergogna. Beh, non lo so. No, io non la porterei. No, nemmeno io me la, no, porterei. Nemmeno io. Io le laverei a mano, lavaggio delicato. Ma perché non avete mai vissuto a New York? A New York o le porti in lavanderia o le porti in lavanderia, e dunque le porti in lavanderia. Andarle nel lavandino? No, certo, esatto. Sì, gli, sì, gli appartamenti sono così piccoli che non ci sono. A Parigi no bidet, a New York, esatto, a New York no lavatrice. No bidet. Che bidet? È città la sua comunque. Chissà, sì, cosa, no, dicono, no, gli altri di noi, degli, sì, italiani. No, che non abbiamo l'aria condizionata, infatti una volta ho avuto due ospiti svizzeri, cioè stavano veramente morendo. Infatti, ma qua noi siamo attenti al green, no? Non facciamo, esatto, CO2, non facciamo CO2, cose, esatto. Forse emaniamo CO2 in questo momento. Vendiamo a Ryanair. Emaniamo, esatto, CO2 sicuramente. Io nel frattempo sto perdendo la mia cuffia mentre arriva l'ennesimo aereo. Ma e dunque dobbiamo ascoltare Ragazzo Invisibile, perché altrimenti poi non abbiamo, dai, più il tempo di. Cosa ci racconti di Ragazzo Invisibile? Che è questo pezzo che. Sempre tuo, di Alessandro come Alessandro, giusto? Sì, questo pezzo in realtà, allora, lo avevo scritto con l'idea di partecipare ad un concorso nel quale, dall'omonimo film di Salvadores, okay, che è appunto, certo, Ragazzi Invisibili, chiaro, esatto, mm-hmm, e era stato fatto un bando per parteciparvi e ho scritto, c'era un tema da rispettare e quant'altro, ho scritto questo brano pensando a come potesse essere la colonna sonora di questo film, dando la priorità a scrivere in italiano, per poi le selezioni sono andate a buon fine? No, assolutamente, hanno scelto due ragazzi italiani che però scrivevano in inglese, e quindi la mia idea, che era, scrivevo anche in inglese all'epoca, però ho detto, un film italiano, regia italiana, tutto italiano, tutto lo scrivo in italiano, e in hanno preferito comunque due interpreti italiani, ma che hanno scritto il pezzo in inglese. Vabbè, quindi, facciamo, vabbè, una cosa, adesso lo ascoltiamo, poi decidiamo se ci piaceva di più il tuo oppure quello che hanno scelto, che no, io non me lo ricordo, per cui dopo daremo ragione al tuo. Ci, dai, piacerà per favore. Esatto. Invisibile agli occhi di tutti, come un supereroe senza la sua maschera, mi nascondo dagli occhi distratti di chi non vuol vedere. Cammino sui miei passi senza lasciare alcuna impronta. Passerò lì vicino, non vedrai la mia ombra. E cercami, trovami, trovami, cercami, invisibile. Cercami, trovami, trovami, cercami, invisibile. Sogno ad occhi aperti, mi perdo nel buio. Ragazzo invisibile, questo sono. Vedo riflessa la mia immagine allo specchio. È l'alba di un nuovo giorno, così diverso. E a 13 anni ci si confronta con giganti, tante domande e poche le risposte. Si vuol far finta di essere grandi, ma abbiamo paura di noi stessi, di quello che non conosciamo, di cosa siamo capaci di fare. Sogno ad occhi aperti, mi perdo nel buio, ragazzo invisibile, questo sono. Non vedo riflessa la mia immagine allo specchio, è l'alba di un nuovo giorno, così diverso. Io avrei fatto vincere te, sappilo. Thank you. Wow, è scoppiato fortissimo. Ah, che cosa? Questo il temporale? Miracolo. Ecco, sì. È arrivato il temporale. Sì. Okay. Per cui se non siete a Bologna, sappiate che a Bologna è scoppiato il temporale. Forte, forte. Molto bene. Adesso se c'è bisogno. Ah, se c'è bisogno di chiudere le finestre. Andiamo a chiudere le finestre. Io? Sì, come vuoi. Ma sì, dai. Che bello. Ragazzi. Facciamo sentire la pioggia. E dunque che cosa devo raccontare io a voi? Dove eravamo rimasti? Tu vai a Parigi, tu rimani qua. Io diciamo che faccio un po' il giramondo. Infatti, fai la spola, cavoli, grandine. Aspetta. Porca paletta. Tutto porta Roma comunque. Grandine, io lo appunto. Sapevo, no, beh, lo avevo detto che finché non mi grandina addosso possiamo lasciare aperto, no? Tanto è anche piacevole questo rumore. Vabbè, di fondo finalmente un po' di, no, vento, finalmente un po' di musica di sottofondo, come si deve. Io posso dire on air che me la faccio sotto della pioggia e in questo momento vedo delle cose di grandine, grandi come delle palline, cioè, da gol. Sì, sì, tra l'altro sì. Tu sei anche in bicicletta stasera. Ah, vabbè, dai, ti porto a casa e ti porto anche la bicicletta in casa. Non ti preoccupare, ce la faremo. E dovevamo, okay, dovevamo andare a bere dopo? Sì. Beh, così spare. Io ho la macchina, però ho un posto e c'è i miei scatoloni che dovrò portare a Parigi, quindi. Esatto, forse ci copriremo con gli scatoloni. Almeno sarà una qualcosa. Anche tu, esatto, sei in macchina? Sono in macchina, sì. Ok. No, perché a me piacciono moltissimo le macchine grandinate, ma io non credo di essere. Penso che la maggior parte della gente sarà un po' dispiaciuta. Ma che miseria! Come è bellissimo, un rumore bianco qua. Veramente. No, un attacco di panico. Appena è venuto in mente che non ho fatto. No, non ho fatto l'assicurazione per le grandinate. No, io non l'ho fatta. Tony, grande. A me piaceva. Fulmini, la... Aspetta che faccio una foto così la mettiamo sul blog della. Sì, no, mettilo perché se a un certo punto non ci sentite più, veniteci a prendere. Siamo in via Zanardi 369 e scrivete al 333-1809-494 per mandare qualche messaggio, diciamo così, Marco confortante. Roma, facci una canzone. Marco Roma, facci, sì, ti prego, facci capire le gioie della grande. Io non ho l'assicurazione sui cristalli. No, vabbè, ma per adesso non sono molto grandi, dai. Disse mentre gli si spaccava il vetro della finestra della radio. Sì, è saltato così, ragazzi. Si parlava di sostenibilità e ambientalismo. Esatto. E adesso vediamo. E adesso ne paghiamo le conseguenze per tutto quello che è. Calamità naturale. È così. Niente, io sono ufficialmente, non so cosa dire, perché sono ufficialmente presissima da questa cosa. E quindi Stefano, mettiamo su un altro pezzo. Ce l'ho il jingle. Ah sì, no, presentiamo questo nuovo artista, no? Questa no, sì, una cantautrice italiana che si chiama La Plastique. Non so se tu, Alessandro, la conosci. Lei, il suo vero nome è Laura Gismondi. E dice che vive tra le Marche e Bologna, per cui se potrebbe anche starci ascoltando. E nell'ottobre del 2020 inizia la collaborazione con Daniela Munda, sua attuale produttrice. The Ghost of My Past, il suo singolo di debutto, uscito a maggio del 2021, è parte di un EP composto dal Labirinto del Non Io, uscito a novembre, e Frastuono ed Overthinking, disponibili dal 2022 su tutti i digital store. E oggi ci ascoltiamo appunto Frastuono, perché è appena uscito un nuovo video prodotto con la tecnica del time lapse e realizzato, sentite che bei rumorini di grandine che sbatte contro il vetro della radio, dall'artista milanese Andrea Spinelli. E adesso ci andiamo ad ascoltare, intanto che scappiamo a proteggere le nostre macchine, andiamoci ad ascoltare Frastuono. Dentro al cuore veste l'anima, in un letargo e di silenzio posa la vita. Scorre nell'argilla un'evanescente scia, la fragranza di un passato già volato via. Senti che rumore di metallico frastuono, evocato dalla foto di un giorno glorioso, celebre passato. Scappavano più via. Tutta la cucina aveva le finestre aperte? Adesso ho un lago per terra, ma non ho trovato niente per... Che dobbiamo fare? Non è colpa nostra, scusate. No, colleghi della radio, non lasciate le finestre aperte quando ve ne andate dalla radio, esatto. Perché io non sono andato in cucina, era tutto chiuso. E dunque così, ci siamo cuccati anche la grandine in una tra le ultime puntate estive di Coxo Spaziale, perché lunedì prossimo io non ci sono, e neanche il lunedì dopo, ho scoperto. Neanche il 18? Neanche il 18. E quindi cosa facciamo? Chiudiamo? Li registriamo? Le registriamo. Allora, l'11 io volevo fare una registrazione, ma non riuscirò a farla. Ok, per e invece, cui... poi cosa facciamo? No, questa è una comunicazione per Radio Peng che ci ascolta. Sappiate che per un po' non ci sentirete. Forse i ragazzi di qua non sanno che siamo anche on air. On air in America. Ah, in Virginia. In Virginia. In Virginia. In Virginia. We can say hi. È una radio online che ci ha chiesto le registrazioni da mettere online, per cui siamo super international. Per cui Bill l'hanno ascoltato anche dall'altra parte del mondo. Infatti. Cioè, wow. Per adesso non ancora, ma domani quando l'ascolteranno, dopo potremmo dire l'hanno ascoltata anche dall'altra parte del mondo. Tra l'altro sono uno dei più grossi negozi IKEA, proprio. Hai capito? Era da dire. Molto bene, cioè qui sono le 19:59, dice il mio orologio, per abbiamo cui delle menzioni? Ci dobbiamo, no, non abbiamo delle menzioni, perché okay, altrimenti le avrei già fatte. Per cui ci dobbiamo salutare. Mia, fai l'elenco degli ospiti. Allora, diciamo ciao e a presto all'art director Elena Bove. A presto. Fashion designer Maria Giulia. Ciao. Buttarelli. Yes. Biglie, a.k.a. Alessandro Biondi. Grazie mille per averci ospitato. E Nico, a.k.a. Nicolò Pisciotto. Ciao, troverete, tutti i loro tag, i loro link, le loro informazioni per rimanere aggiornati su tutti i loro progetti nuovi e multipli in coxspaziale.blogspot.com. Fantastico. Io ero Mia della Schio su Piei. E io Stefano W. Pasquini. E questo era Coxo Spaziale. E come al solito vi lasciamo con le parole del nostro fantastico mega direttore, che spero che sia guarito dal Covid, che ci dice così. Con questo basso livello di radiofonia, ascoltiamo la sigla. Just a glimpse of abs in flimsy floral dress, shows off her slender frame, enjoys a private stroll. Shy love.